Tanto. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, siete a Brussellando a Radio Alma, quindi ascoltate le frequenze di Radio Alma 101.9 e io sono Mary D. E saluto in regia per la parte tecnica il nostro Dani M. Buona serata a tutti. E invece il resto della truppa arriverà strada facendo, immagino, già che questa è l'ultima puntata, è la puntata conclusiva di questa quinta edizione di Brussellando. Il tempo veramente scorre veloce, quindi siamo già ormai in dirittura di arrivo anche di questa stagione. Inutile ovviamente salutare, ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile anche questa edizione, dagli scrittori, ai giornalisti, ai diplomatici, ai poeti, agli studenti che pure recentemente hanno partecipato, oppure ai semplici impiegati che ci hanno raccontato qualche settimana fa come è cambiato il mondo del lavoro negli anni. Quindi ringrazio veramente i numerosissimi ospiti, e sono davvero tanti, quest'anno più di 40, quindi Brussellando migliora anno dopo anno e aumenta anche il numero delle interviste. Con questa puntata ci salutiamo per questa edizione, poi ci ritroveremo nuovamente sempre sulle nostre frequenze 101.9 dal primo martedì di ottobre, che quindi dovrebbe essere proprio il 2 ottobre. Questa sera concludiamo con due ospiti di eccezione, con un ospite che ritorna graditissima, Maria Teresa Scibona, e invece poi un'altra ospite che ha scritto un romanzo straordinario che veramente vi suggerisco di leggere, dal titolo La regina irriverente di Carla Maria Russo, che avremo tra qualche minuto proprio al telefono e in diretta da Milano. Prima però di passare alle nostre interviste, volevo ricordare alcuni degli eventi di questa non estate bruxellese, perché mai come quest'anno l'estate non è mai arrivata, oppure è arrivata e nessuno se ne è accorto, tant'è che il sole effettivamente è dato per disperso. Anzi, se qualcuno di voi fosse all'ascolto e l'avesse trovato, per piacere ce ne invii le coordinate, così forse almeno chi l'ha visto, riusciamo a individuarlo. Il numero di telefono di Radio Alma, se voglio magari anche con una battaglia navale, insomma, possiamo vedere di recuperarlo. E parto con un evento molto molto importante, perché riguarda anche la nostra integrazione in questa città, in questa nostra capitale, che è la festa al parco, quindi la festa nazionale il prossimo 21 luglio, che come sapete è animata di tante manifestazioni che si svolgeranno un po' in tutta la città, da Place Poulard a Rue de la Régence, al Petit et Grand Sablon, alla Place Royale, alla Place des Palais, Place du Musée, Par Royal, Rue Montagne e della Curie. Ce ne sarà come al solito di ogni, e che soddisferà, credo, come al solito i gusti dei più piccoli e dei grandi, per quanti amassero anche le sfilate militari. Vi ricordo che come ogni anno, proprio il 21 luglio, ci sarà anche la possibilità di guardare e sfilare quelle che sono le diverse i diversi rappresentanti dell'armée belge. Ovviamente il tutto è gratuito e si comincia già presto in mattinata e fino alla mezzanotte, quando ci saranno anche gli attesi e graditi fuochi di artificio. Mari, chissà se quest'anno non ci faccia il regalo di fare capolino il sole il 21 luglio. Soprattutto che non piove, proprio mentre ci sono i fuochi pirotecnici, perché annualmente, insomma, la tradizione si rinnova, e quindi questo accade puntualmente. Invece poi, strettamente legato alle feste nazionali, è il ballo nazionale, che fu introdotto la prima volta nel 2003 in occasione di 10 anni di regno di Alberto II, e questa tradizione si rinnova, sarà nuovamente riorganizzata quest'anno nel cuore praticamente delle Marolles, che conoscerete benissimo, cominciando alle 19:30 e fino alle 23:30. Sono tanti gli ospiti previsti, anche in questo caso non vi è alcun biglietto da dover pagare. Quindi Bal National può andare, per quanti volessero saperne di più, a Place du Jeu de Bal al centro di Bruxelles. Un altro evento ugualmente interessante, che avrà sempre luogo a Saint-Michel, quindi alla cattedrale di Saint-Michel, ma che ha luogo udite udite, proprio adesso, il 17 luglio, quindi oggi, dalle 20 fino alla mezzanotte, è un concerto interamente dedicato a Bach, eseguito da Thomas Berning. E quindi veramente, per quanti fossero in strada, per quanti non sapessero cosa fare stasera, rendetevi alla cattedrale San Michel e Gudule, al Parvis San Gudule, dove potrete ascoltare questo meraviglioso e straordinario concerto. Infine, perché poiché domani è il compleanno di Dani M, possiamo dirlo alla radio, visto che c'è questa piacevole coincidenza. Grazie. L'evento che è stato selezionato ricorda anche i compleanni. E pensate, ci sono tutta una serie di compleanni che possono essere ricordati, quindi delle date storiche, delle date particolarmente importanti o gloriose. Però quanti di voi fossero all'ascolto e non avessero ancora festeggiato il compleanno, oppure lo festeggeranno l'anno prossimo, sappiate che c'è un sito che potrà praticamente nel giorno del vostro compleanno farvi da visita, da guida a Bruxelles. E per tutti coloro i quali sono nati il 18 luglio, l'appuntamento è domani. Il percorso dura 2 ore, a piedi ovviamente. Il biglietto di circa 8 euro, mi sembra giusto, perché insomma comunque immagino che la guida sarà una guida di veramente eccezione, quindi un cicerone effettivamente sicuramente diverso dagli altri. E l'appuntamento è presso la statua di Giuffredo di Buglione, presso la Grand Place, come tutti voi sapete, al Place Royale. Se volete saperne di più, intanto 0496 388594 è il numero da contattare, quindi ripeto 0496 388594, e gli orari di apertura sono tra le 2 e le 4. Per quanti invece leggessero Che Fer Fuandé, avranno una riduzione del 20%, quindi insomma Dani M immagino che sarà tra i primi ad andare lì domani pomeriggio. Dani M, sbaglio? Ma sì, dai, ci sarò. Lui ci sarà, d'altronde è il suo compleanno, quindi perché no? Ma una maniera diversa magari di scoprire delle novità, insomma, delle... Ma sì, dai. Io invece volevo fare una domanda a Maridio. Dimmi. Siccome la settimana scorsa, mi sembra, ma non ne sono sicuro, avevamo accennato al concerto di Madonna che doveva aver luogo. Hai ragione. Vorrei avere la tua opinione. Allora, l'opinione, ci sono due opinioni, perché come al solito la verità non è mai univoca. E mai come in questo caso si può applicare questa verità, si può anche applicare al concerto di Madonna. Allora, c'è prima di tutto uno show, e Madonna è stata straordinaria perché sotto la pioggia ha cantato, ballato, si è divertita, anche se secondo me fa ancora riferimento a dei cliché ormai superati, come per esempio la sua ostilità verso la Chiesa cattolica, come l'esorcismo, insomma una serie di argomenti che secondo me sono un po' demodé. Dall'altro lato, e quindi questa parte mi è comunque piaciuta, perché effettivamente c'era una Madonna in grande forma anche fisicamente, ha anche mostrato qualcosa di lei che poteva essere facilmente indovinabile. Comunque la parte meno interessante invece è stata proprio la scaletta, la scelta delle canzoni, che io ho trovato del tutto deludente, tant'è che solo l'ultima canzone, Like a Prayer, effettivamente ha scatenato la gioia e l'entusiasmo dei 40.000 che erano allo stadio Baudouin, i quali si sono veramente alzati come in un'onda e cantato a squarciagola la canzone con Madonna. E questo è l'unico momento effettivamente gioioso di una serata che altrimenti era stata pressoché noiosa. Però tutto sommato guardare anche solo da lontano un personaggio così controverso e amato come Madonna, comunque è stato sicuramente uno degli eventi che ricorderò con più piacere in questo 2012. Io mi fermo qui, saluto il nostro Giorgetto. Precisi. Ci sono, che ci sono. Ecco. La nostra Fiordaliso. Ed eccomi anche. Devo schiarire la mia gola. Fai una prova di voce, vai. E questa sera, come annunciato, abbiamo due ospiti, entrambi in diretta telefonica dall'Italia. La prima è Carla Maria Russo, che praticamente è già autrice di più opere, sia per ragazzi sia per adulti, e soprattutto per adulti lei ama molto la storia medievale, e pressoché tutti i suoi romanzi sono ambientati in quel periodo. E questa sera noi ci intratterremo proprio sulla sua ultima fatica letteraria, che è La regina irriverente, ed è, io sono molto contenta perché parla e descrive uno dei personaggi storici che io ho più amato, che è proprio Eleonora d'Aquitania, un personaggio straordinario di cui Carla Maria ci racconterà probabilmente molti più dettagli. Carla Maria? Pronto? Pronto Carla Maria, ci senti? Buonasera, sì, vi sento, buonasera eccola, a tutti. Eccola, eccola. Buonasera, benvenuta a Brussellando, a Radio Alma. Grazie a voi, buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Noi siamo molto felici di averti con noi perché, come ho appena anticipato, non so se eri già in ascolto, Eleonora De Aquitania è uno dei miei personaggi storici preferiti. E quindi, insomma, leggere il tuo romanzo è stato veramente un bel salto anche ai miei ricordi universitari di quando studiavo questi benedetti esami di storia che sembravano essere interminabili e non finire mai. Prima di passare tuttavia al tuo romanzo, e poiché è la prima volta che sei nostra ospite qui a Brussellando, ci farebbe piacere sapere qualcosa di te, quindi se puoi raccontarci brevemente qualcosa in particolare sul tuo percorso, magari di scrittrice. Guarda, di scrittrice, io sono una scrittrice giunta a questa scelta piuttosto tardi, non ho mai pensato di fare la scrittrice nella vita. Sono stata un'insegnante di italiano e latino nel triennio del liceo classico, poi sono riuscita per una serie di combinazioni più fortunate a dedicarmi a una mia grande passione, che è la ricerca storica, appunto. E nel fare questa ricerca storica mi sono imbattuta in storie veramente molto belle, molto avvincenti, di una grande, grandissima modernità. E mi piaceva, come dire, perderne la traccia e così mi sono cimentata con il racconto. Ho voluto raccontarle, ho provato a raccontarle. Per parecchi anni ti dirò che le ho raccontate per me, nel senso che ho fatto parte della numerosa schiera di persone che si tengono i libri nel cassetto perché per una serie di ragioni non avevo voglia di cimentarmi con la pubblicazione. Poi è capitato che la mia seconda figlia, che aveva allora 12 anni, mi ha chiesto di poter leggere, mi vedeva scrivere, dice: ma cos'è che scrivi? Fammi leggere. No, dico, questa è roba per adulti e può essere difficoltosa la tua età, allora scrivi qualcosa per me. E così in 20 giorni ho scritto un libretto di avventure per lei, e a lei è piaciuto talmente tanto che ha cominciato a dire: ma insomma, ma perché non provi, ma perché non contatti? E alla fine, seguendo un po' le sue pressioni, ho presentato questo libretto a Mondadori Scuola, perché appunto insegnando sapevo che magari nelle medie, uh-huh, sono scuole medie, sono libri che possono interessare, e dopo 6 mesi ho avuto la risposta positiva, l'accettazione di questo libro. A questo libro ne sono seguiti un paio d'altri per ragazzi, finché non ho pubblicato con Il Battello a Vapore, che è poi, uh-huh, un marchio PM Mondadori, e da lì ho conosciuto l'editor per gli adulti. A quel punto ero già un pochino, diciamo, più navigata, e ho presentato La Sposa Normanna, è stato accettato, e poi La Sposa Normanna è diventato uno dei tuoi best seller, lo possiamo dire. Prego? È diventato uno dei tuoi best seller, penso abbia venduto tantissimo, sì, in Italia. È stato pubblicato nel 2005, non ha mai smesso di vendere, adesso ha superato le 100.000 copie, continua a essere venduto e mi ha dato veramente grandi, grandi soddisfazioni, come gli altri, per la verità, perché poi più o meno tutti i libri miei finora seguono questa sorte, cioè sono un po' dei long seller, continuano a essere venduti negli anni, perché in genere se uno legge un libro poi va a leggere anche tutti gli altri, e quindi l'uno tira l'altro, insomma. Beh sì, soprattutto quando un autore piace, poi magari si cerca di leggere il più possibile, sì, per sì, esatto, continuare ad apprezzarne, andare a leggere gli altri, insomma, se è piaciuto si cercano gli altri libri. E toglimi una curiosità, come nasce la trama nei tuoi romanzi? Segui un ordine oppure il tutto si schiarisce man mano che avanzi? Guarda, nella stesura? In genere io sono molto molto molto anarchica e disordinata come scrittrice, seguo molto l'impulso. Io intanto amo prendere le mie storie dalla realtà, perché ritengo che la realtà superi la fantasia di qualunque scrittore. È sempre veramente incredibile ed affascinante quello che accade nella realtà. mi lascio catturare dalle trame, dalle vicende che trovo nei miei studi. Io leggo, studio sempre di tutto e anche in questo sono abbastanza disordinata, seguo l'impulso del momento, e questo spiega anche perché i miei libri sono ambientati in epoche sempre diverse, perché a me non interessa il Medioevo, il Settecento, i giorni nostri, a me interessa la vicenda, la storia che mi piace e che mi avvince e che naturalmente lascio nel periodo in cui si è verificata, per cui non so, Lola nascerà a 18 anni, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la sposa Normanna è ambientata nel Medioevo, certo. Come anche la regina irriverente, insomma. E una volta che una vicenda mi cattura perché è moderna, perché è avvincente, appunto, il racconto è quello, il canovaccio c'è, perché la vicenda da raccontare è quello. Dopodiché io non faccio scalette, non faccio schede di personaggi, non mi avvalgo di tutte quelle tecniche di riepilogazione, organizzazione del pensiero che so che altri colleghi usano. Io inizio a scrivere e seguo molto, moltissimo come dire, l'interiorità, quello che viene dal profondo di me. È una scrittura che nasce molto dal subconscio, dal profondo di me. E quindi in un certo senso io sono la prima lettrice di me stessa, perché quando butto fuori e scrivo queste pagine, poi dopo le rileggo e leggo cosa è saltato fuori. Ovviamente sono molto pignola nella rilettura, revisione dell'opera, perché so che appunto sono piuttosto anarchica, seguo un po' questo filone così un po' disordinato e quindi divento molto pignola nella revisione delle opere, che io faccio più volte e in genere tra una revisione e l'altra lascio passare 3 mesi, 2-3 mesi, anche più, perché voglio staccarmi, proprio prendere le distanze, dimenticare, in maniera che quando vado a rileggere, come dire, ho una visione critica, riesco a essere critica e non sono invece ingolfata troppo nel mio lavoro, perché se si è troppo avviluppati in quello che stai scrivendo, perdi una visione d'insieme. Quindi lascio passare una lunga distanza e poi rileggo. Questo spiega anche perché sono un'autrice che è un po' lenta nella sua produzione, ho bisogno dei miei tempi. Beh, assolutamente, insomma, poi la scrittura è anche ispirazione, quindi immagino che ci siano storie che riescano. Esatto, sì. Allora, per capire, definiresti i tuoi romanzi storici? Perché da quello che mi hai detto a questo punto mi viene un po' un dubbio. Guarda, bisogna capire, perché il discorso del genere è sempre un discorso complesso. Io soffro un po' l'incasellamento in un genere, perché è un po', ecco, un coartare, fa molto piacere e comodo alle case editrici. Secondo me per l'autore è un po' un incasellamento. Diciamo che il mio non è un romanzo storico che parta dalla storia, che ha nella storia con la S maiuscola il suo punto di partenza. Io non scrivo di storia con la S maiuscola, io scrivo di storie, che è molto diverso, scrivo di vicende private, personali, moderne, perché devono avere, per catturarmi devono avere questo tratto di grande modernità, di parlare, essere in grado di parlare al cuore di uomini e donne di oggi. E devono essere avvincenti, quindi parlo di questo. Naturalmente ciascuna vicenda accade in un contesto, che è un contesto storico, sociale, eccetera, eccetera, perché la nostra vita è profondamente immersa nel contesto sociale nel quale viviamo, operiamo. Bene, io quel contesto, che sia il Medioevo, che sia la Seconda Guerra Mondiale, che siano i giorni nostri, cerco di ricrearlo con grande fedeltà, con grande precisione, perché è importantissimo ai fini dello spessore culturale della storia, dello spessore psicologico dei personaggi, cioè i personaggi non sono avulsi dal contesto, vivono e operano in un contesto. Quanto meglio, quanto più sei in grado di descrivere questo contesto con realismo, con vivezza di particolari, con precisione, tanto più il racconto, la trama, la psicologia dei personaggi se ne gioverà. Questa è la ragione per la quale io sono molto attenta e precisa nel ricostruire la vicenda intorno ai miei personaggi. Se questo, diciamo, si può definire un romanzo storico, benissimo, è un romanzo storico, ma è un romanzo storico con le sue peculiarità, le sue specificità e le sue caratteristiche, insomma. Assolutamente, messaggio molto molto chiaro. Allora toglici una curiosità. Eleonora d'Aquitania, nipote di Guglielmo il Trovatore, sposa Luigi, secondogenito del re di Francia. Cosa ti ha colpito in particolare di questa coppia tanto da scriverne un romanzo? Quali sono stati gli elementi appunto di modernità, certo, che hai ritrovato? Guarda, intanto l'elemento di grande modernità è lei, Eleonora, perché lei è veramente una donna moderna, catapultata in un periodo in cui essere donna e avere certe concezioni era terrificante, nel senso che, per carità, anche la nostra società d'oggi è, parliamoci chiaro, maschilista, ma quella del Medioevo era profondamente maschilista, profondamente violenta anche nelle concezioni, nelle categorie di pensiero. Questa donna è una donna che per una serie di, anzi è una ragazza, perché se pensi il mio quando inizia la storia lei ha 15 anni, quando finisce la storia ne ha 29, quindi è una ragazza, insomma, che per una serie di circostanze fortunate, il fatto che è molto intelligente, il fatto che cresce in una corte che è sensibilissima al sapere, alla cultura, alla conoscenza, dove si creano nuove mode, dove si è creata la letteratura cortese, quella che poi è arrivata in Italia, eccetera, eccetera, per una serie di circostanze fortunate cresce con una sensibilità, una concezione di vita, un modo di pensare che intanto sono sue, originali, non sono, come dire, conformate da quello che la società obbliga e pretende e insegna a pensare. Quindi intanto sono sue, sono originalissime. E poi sono veramente profondamente anticonformiste. Per sua fortuna o per sua sfortuna, lei è una persona con concezioni, bisogni, esigenze, modi di pensare molto diversi dal contesto nel quale e dalle categorie di pensiero che caratterizzano la sua epoca. Cosa succede? Che invece di, come dire, chinare la testa, sottomettersi, subire, lei lotta, perché è tale la forza interiore che sente che non ce la fa, non può essere una donna sottomessa, quindi assume questi atteggiamenti e comportamenti che sono veramente vicinissimi a noi. Lei non subisce, non ce la fa, non può, e quindi tenta in tutti i modi di difendere e imporre il suo punto di vista, il suo modo di concepire l'esistenza, eccetera. Questo fa sì che non solo sia modernissima lei, per noi può essere un'icona, capisci? Perché lei, certo, ha lottato in una società che è ben più difficile, già difficile alla nostra, ma quella lo era molto di più, quindi è un modello per certi versi, dal quale prendere esempio, ci offre molti spunti di riflessione, ma proprio perché lei era così, anche il rapporto di coppia con Luigi diventa modernissimo, perché non è il rapporto di coppia medievale in cui la donna tace e il marito ordina. Lei cerca di fare di tutto perché il matrimonio funzioni, ma sulla base di quello che lei vuole, nel modo in cui lei vuole che vada, quindi cercando di trascinare, di tirare Luigi dalla sua parte, come dire, di liberarlo da questa sottomissione al suo tutore, alla madre, eccetera, eccetera, di farlo diventare, di avvicinarlo sempre di più al suo modo di pensare, al suo modo di vedere. Ovviamente cosa succede? Che il rapporto di coppia è anche quello un rapporto di coppia molto moderno, perché questa coppia è sottoposta alle dinamiche che abbiamo noi oggi, e noi siamo condizionati da che cosa nel rapporto di coppia? Dei fattori esterni che ci condizionano, come hanno condizionato Eleonora e Luigi, e dalle dinamiche interne alla coppia, perché la coppia, ecco, può essere fatta da persone che si portano dietro una storia diversa, che si portano dietro concezioni di vita diverse, e questo naturalmente influisce sul rapporto, per cui tu puoi fare di tutto per farlo funzionare, ma se le contraddizioni ci sono, alla fine finiscono per esplodere, ed è quello che accade in questa coppia, insomma. E anche questo è un rapporto veramente moderno, bello, proprio perché lei lo ha impostato secondo un modo di vivere la vita che è vicinissimo al nostro, insomma. Tra l'altro vorrei dire a conclusione, perché ahimè il tempo è tiranno, certo, è veramente tiranno, per curiosità, come chicca per i nostri ascoltatori: Eleonora d'Aquitania fu sia regina di Francia e poi regina d'Inghilterra. Quindi voglio dire, insomma, mi occupo della seconda parte per ora della vita, anche se già gli lettori mi stanno aspettando di mail, quindi seguito, ma comunque la mia storia si ferma al suo rapporto con Luigi, quindi insomma magari potrebbe esserci un seguito. E quindi che cosa bolle in pentola? Ma guarda, per il momento non il seguito di Alienor, che poi vedremo in futuro. Per il momento bolle in pentola una storia gialla, pensa, completamente diversa, ma anche qui una storia quanto mai affascinante, e ho deciso di raccontarla, ma questa è una storia gialla, un thriller proprio, quindi bolle in pentola questo. Poi sai, io non mi sbilancio mai molto, perché tra le idee e quello che frulla e la realtà poi del libro pubblicato e che arriva in libreria, ci vuole tanto tempo, insomma, ne corre. Comunque è questo che sto meditando. Peraltro, se posso darti una piccola notizia, la regina irriverente è nella cinquina finalista al premio, che è un premio molto prestigioso, al premio Acquistoria. Ma benissimo. Nella sezione romanzo storico, è questo. Allora, possiamo votare? Possiamo esserti d'aiuto oppure no? Guarda, purtroppo temo di no, perché i meccanismi del premio Acqui sono un po' restrittivi, sono riservati a una giuria e a anche a una giuria di lettori, che però è già stata selezionata, quindi insomma i meccanismi sono tutti in mano a questa giuria, però insomma è già molto così prestigioso, mi fa comunque molto piacere che sia nella cinquina finalista, quindi bene, noi veramente siamo felici di questa notizia, assolutamente. Ma io, prima di lasciarti, una piccolissima, brevissima domanda: visto che scrivi di getto e visto che ci hai appena annunciato che scrivi un romanzo giallo, una storia gialla, come riesci a incastrare quello che scrivi di getto con i necessari legami che ci sono all'interno di una storia gialla, quindi con gli indizi eccetera, che si costruiscono mano a mano, come li conservi? Ma guarda, sono cose che devi sentire, che porti dentro, e sono meccanismi che io so di avere dentro, perché per esempio una delle cose che veramente i lettori mi dicono, ma tutti quelli che mi scrivono, è i tuoi libri una volta iniziati non si riesce più a lasciarli, li devi leggere, devi andare avanti. C'è un lettore che ha scritto, che ha postato su Facebook questo bellissimo messaggio, e cioè: vorrei fare una domanda all'autrice, non ha previsto un escamotage per consentire al lettore di andare a bere un bicchiere d'acqua, insomma. Quindi questo evidentemente, se tu riesci comunque in qualunque opera scrivi, ci deve essere una storia che avvince, che prende una dinamica, che riesce ad attrarre il lettore, a inchiodarlo al libro e a tenerlo lì. Questo c'è nei miei romanzi, quindi questo vuol dire che porto comunque dentro di me. D'altro canto, Lola nascerà a 18 anni, è un romanzo giallo, è un giallo anche quello, e nello stesso tempo è una storia d'amore, è una ricostruzione della Milano della guerra. Insomma, sono libri, come dire, compositi. Come dicevo prima, non mi piace chiudermi, imprigionarmi in un genere. Mi piace arricchire le mie opere di tanti caratteri. Credo di avere nelle mie corde il giallo e di avere i meccanismi che avvincono il lettore e lo tengono inchiodato lì. Ma noi ce l'auguriamo assolutamente, e vediamo insomma, attendiamo questo romanzo, vediamo di leggere, vediamo quanto avvincente è, sicuramente sarà in confronto con il resto. Certo. Dopo, quando ce ne vorrà ancora tanto, perché sono ancora molto agli inizi, io ho detto, sono una scrittrice piuttosto lenta, quando sarà ci ritroveremo, così mi darai la tua opinione, va bene? Benissimo. Perfetto, allora in bocca al lupo, e ne approfittiamo anche per augurarti buone vacanze. Grazie, buone vacanze anche a voi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti quanti. A presto. Ciao. Grazie, arrivederci, ciao. Ed eccoci nuovamente qui, insomma, incontrare la scrittura di Carla Maria proprio in, in chiusura della nostra trasmissione, effettivamente di questa nostra edizione annuale, è stato estremamente interessante. Voglio ringraziare nuovamente Giuliana Galvis, la quale, come ricorderete, lavora con grandi associati a Milano e che di tanto in tanto mi scrive e mi suggerisce nuovi autori. E Carla Maria è stata una piacevolissima sorpresa. E altri autori proprio di grandi associati seguiranno con la nuova edizione di Brussellando. Giorgetto, è l'ultima puntata. È l'ultima puntata, ma noi abbiamo una piccola cosa interessante, insomma. Voi sicuramente conoscete, ormai la conoscete, Sara Rattaro, perché noi l'abbiamo intervistata, certo, all'inizio, qualche settimana fa. Devo dire che ormai Amazon comincia adesso a mandare mail dicendoci una nuova... Ah, dici, noi abbiamo già letto. Una nuova scrittrice, troppo tardi ragazzi, troppo tardi, abbiamo già scoperta, anzi... Prima di voi! prima che voi esisteste. Abbiamo Uso Qualunque di Te, devo dire, è stato uno dei romanzi più belli che io abbia letto quest'anno. Posso fare una domanda difficilissima? Sì. Il titolo. Un uso qualunque di te. Un uso qualunque di te, ma il perché del titolo? Io non mi ricordo se abbiamo fatto questa domanda a Sara o no. No, non gli abbiamo fatto, però era molto chiaro dal modo in cui la protagonista si relaziona col suo col suo partner, forse addirittura marito, insomma, con Carlo, che era per l'appunto il marito e che veniva trattato alla stregua di uno zerbino. Ecco, quindi Chiara, penso che il titolo sì. Comunque Sara, se sei all'ascolto, ci puoi dare una delucidazione. Credo sia quello, perché i lettori cominciano a chiedersi, ma sì, no, è certo, è sicuro, ma avevo dei dubbi all'inizio, poi verso la fine ho chiarito, insomma, c'è comunque una possibilità di interpretazione. Quindi Sara, se sei all'ascolto, scrivici una mail, magari leave a comment. Non lo diremo in giro, però blog, almeno per noi stessi. Ebbene, invece chiudiamo, che ormai è consuetudine da qualche tempo, la nostra edizione di Brussellando, e lo dicevamo in apertura, con Maria Teresa Scibona, la quale ci ha già praticamente raccontato più volte delle sue diverse fatiche letterarie, e questa volta questo scritto riguarda una corrispondenza, un epistolario con Mario Verdone, il quale è stato edito da San Pugnano e Pupi nel 2010. Il titolo esatto è proprio L'incontro di due vite. È un epistolario che si snoda dal 1991 al 2004, che però comprende anche scritti di diversa natura, come prove di scrittura poetica, brevi inediti, e soprattutto che si apre con un'intervista del 1993 al professor Verdone e si chiude con un testo, una recensione dal titolo Mario Verdone incontra il Giappone, relativa ad un'esperienza sulla cinematografia giapponese. Tra questi due poli si apre lo spazio poetico dell'epistolario. Il nucleo è appunto l'incontro di due vite, come recita il titolo. Ancora una volta Maria Teresa ci sorprende offrendoci una prova singolare, quella dell'epistolario, che mette in gioco un'esperienza altrettanto singolare ed importante, che è quella dell'amicizia. Bene, bene. Ma io direi quasi, non so se forse possiamo andare avanti col librangolo. Mi stavo chiedendo al regista, che si sta sbracciando, chi lo sa, stiamo cercando di contattare Maria Teresa e vediamo se è possibile parlare. In vari tranche. Allora cominciamo facciamo una sigla, lanciamo al regista lì dietro. Facciamo una sigla di Librangolo e facciamo la prima puntata di Librangolo. Librangolo. Ecco, questo vuol dire che dopo non devi fare la sigla. No, questo l'ho fatto adesso. No, comunque era un po' troppo lungo, però sono un momentino di tua puntata. No, ma è bellissimo, Rachmaninoff. No, ma comunque io stasera vi ho portato una serie di libri perché volevo farvi delle raccomandazioni per le letture d'estate, che è un po' la creme della creme delle letture che abbiamo menzionato in questa stagione. Magari ne comincio con Se durante l'estate volete leggere dei gialli, allora vi raccomando vivamente la serie Fandorin di Boris Akunin, che avevamo letto durante questa stagione e che si svolge negli ultimi anni del regime zarista nella Russia, e che è una serie molto affascinante, molto molto originale, molto spesso, e che quindi vi darà tante soddisfazioni durante le vostre letture in spiaggia. Ma poi aprendo un altro capitolo librangolare, diciamo, un'altra serie di cose c'entra con le cose che fanno ridere. Allora, se avete voglia di divertirvi, ma divertirvi in modo intelligente, non lo so. Comunque vi raccomandiamo di non piazzare mai troppo lontano la guida dell'autostoppista alla galassia, che proprio rimane una dei top dei top, però in questa stagione abbiamo per esempio letto Le tartarughe divine di Terry Pratchett, che a me ha fatto ridere, poi non è detto che faccia ridere a tutti, comunque è in un certo senso una farsa sulle religioni, un'invenzione di Terry Pratchett su che cosa vuol dire veramente essere dei, quanto i dei siano attenti agli umani veramente, cos'è questa connessione, però lo fa in un modo, attraverso una storia che prima o poi risucchia e uno aspetta anche che cosa sta succedendo, quindi rimane una storia molto interessante e fa anche tanto sorridere. Ridere, ma in modo molto intelligente. Sì, io non direi che è una critica della religione, è una critica del non modo è critica. Il modo in cui gli uomini trattano le religioni, che è un po' diverso. O anche i dei che trattano le religioni. O anche i dei che trattano le religioni, se questo è vero. Ecco, e questo è il twist, cioè ci sono sempre dei piccoli twist, diciamo, nella storia. Ancora rimanendo un po' fra le storie un po' gialle e un po' no, questo è piuttosto una cosa psicologica, se posso dirlo così, abbiamo letto il Stanza, letto, armadio, specchio di Emma Donoghue, che è una storia, è veramente uno dei libri scoperta di quest'anno, in cui si tratta dal punto di vista di un bambino dell'essere in cattività con la sua madre nelle mani di un come si chiamano questi che... Di un rapitore. Di un rapitore, esattamente, che abusa della mamma e di questo è frutto il bambino. Quindi loro stanno così a tanto lungo in cattività che praticamente il bambino cresce fino ad avere, non mi ricordo esattamente quanti anni, però cioè, il punto di vista del bambino è freschissimo ed è bellissimo in questo libro, nel senso che la stanza è il suo mondo. E la mamma ha questa creatività incredibile nel tenerlo occupato di fargli sviluppare la mente, la curiosità, nonostante il fatto di vivere fra quattro mura. Quindi questo è un altro di quei libri, quelle storie che, anche se sono un po' pesanti, quindi non necessariamente letture da spiaggia, è una bella cosa da recuperare durante le vacanze. E poi continuo o allora io farei magari puntata. Interruzione e poi dopo terminiamo col secondo segmento. Certo, finiamo la puntata, finiamo la prima parte della puntata. Esatto, la prima parte di Brussellando e apriamo qualcosa, vediamo se si può. Proseguiamo con andare avanti. Quindi allora Maria Teresa con noi, insomma, il telefono ai miei a volte con le distanze ci fa brutti scherzi, però abbiamo recuperato la conversazione. Maria Teresa. Oh, ciao, benvenuta. Eccola, benvenuta, buonasera. Benvenuta a Brussellando, a Radio Alma. Come anticipavo in apertura di trasmissione, ormai è diventata una nostra consuetudine quella di concludere l'edizione di Brussellando con una tua intervista. Per me è un grande onore, un grande privilegio, io mi sento di casa. Mi sento adottata. meno male, che cosa bellissima hai detto. Allora, dicevamo che una delle tue ultime fatiche letterarie è stato proprio l'epistola pubblicata. Dicevamo che una delle tue ultime fatiche letterarie è stata la pubblicazione dell'epistolario con Mario Verdone. Sì. Ci puoi raccontare un po' qualcosa in più, magari anche della genesi stessa di questo epistolario? Sì, dunque, come sai, Verdone aveva una casa a Siena e questa casa veniva quindi spesso, perché lui nell'infanzia è stato qui e aveva la nonna, questa casa lui l'ha mantenuta e aveva anche molti amici. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo perché avevo presentato un suo libro di poesie e quindi da allora poi non ci siamo più lasciati, nel senso che tutte le volte che lui veniva a Siena mio figlio lo andava a prendere, quando in principio veniva con la macchina, ma molte volte veniva anche con l'autobus da Roma, e quindi era diventato veramente un amico di casa, tant'è vero, io non so se te le ricordi, c'ho tutte le foto di Natale, e veniva anche con la sua compagna, la Sofia Corradi, che lei è quella che poi non solo era professoressa alla Sapienza di Roma, ma lei è quella che ha inventato l'Erasmus. Lui poi aveva sempre, quando l'ho conosciuto io, aveva sempre la cattedra di cinematografia inventata proprio da lui, istituita da lui a Roma. Quindi abbiamo iniziato questa amicizia che è durata a lungo, tant'è vero che noi ci scambiavamo libri ogni volta, oltre ci telefonavamo, e in più lui mi scriveva ovunque andava. Quindi io avevo tutte le sue lettere e naturalmente gli rispondevo. Quando lui non c'è stato più, per me è stata una grande assenza, perché un uomo così eclettico, che aveva girato il mondo, che era stato con i presidenti della Repubblica, e ci stimavamo a vicenda, e in queste lettere c'era un po' tutti i suoi viaggi, io lo chiamavo come un rondinone, per me era un Ulisse, se pensi che io sono sempre in una stanza, io viaggio solo con la fantasia. Comunque non solo ci stimavamo molto, ma e ci scambiavamo, io allora frequentavo il Premavereggio, quindi avrei visto in questo epistolario, io raccontavo quando avevo il salotto della cultura e quando appunto mi portavo gli scrittori dal Premavereggio, che ho seguito per oltre 20 anni. Io mi sono ritrovata a tutte queste lettere e ho pensato che lui non era scomparso, almeno per me, perché come sai per me l'amicizia è sacra. Quando, come deve essere successo con te, se anche ci si vede una volta l'anno, però rimane quella stima, quell'affetto, e così è stato per lui, che veniva almeno, ha passato le vacanze di Natale, o veniva per Pasqua, o quando non veniva, ovunque andava, anche una cartolina me la scriveva. E allora e anche poi avevo rivisto Luca, che lui viene più spesso, Carlo invece è più difficile che venga a Siena perché è sempre in giro, e allora avevo chiesto il permesso a loro di poter pubblicare queste lettere, perché poi più che altro sono lettere sì anche familiari ma anche culturali, e lui e loro mi hanno dato il permesso, e allora io, è stato per me una gioia, perché era un po' come rivivere tutta la nostra amicizia attraverso queste lettere, e attraverso queste lettere non solo si vede la grandezza di questa persona così eclettica, ma si vede anche l'umanità delle piccole cose, per esempio le ultime lettere quando lui già si sente male, non so, quando sono entrate in casa i ladri, hanno portato via ogni cosa, e quindi vedi proprio in ogni aspetto l'uomo, e anche le sue tenerezze, quando per esempio tornava e trovava la tartaruga, la quale era molto attaccata, e in queste lettere noi ci scambiavamo anche delle poesie, e quindi io lo ricordo come una persona incredibile e che rimane nel mio cuore, e leggendole non mi sembra nemmeno che sia andato via. Beh, questo poi è il valore della memoria, che comunque per quanti la coltivano riesce ancora a conservare quel sentimento di immortalità, certo, o comunque di gioventù. È straordinaria che ha avuto tanti, specialmente online, ha avuto una ventina di recensioni, e quindi io sono stata molto contenta, e in più abbiamo fatto delle incisioni numerate di questa pittrice che ha fatto anche la copertina, e che poi abbiamo dato sia a Carlo, a Luca, gliene abbiamo dati in più, abbiamo fatto delle cartoline ricordo, e questo mi è piaciuto molto, perché per me Mario me lo sento ancora vicino, chissà dal cielo come sorride ora, c'ha quella sua risatina, perché poi era sempre allegro, no? È bello, insomma, che le persone non... Maria Teresa, c'è un episodio magari in particolare che vuoi condividere con i nostri amici all'ascolto? Eh sì, guarda, ti dico, naturalmente quando lui veniva io cercavo sempre di fargli delle buone cenette, perché tra altre cose c'è anche Serena, mia figlia, che cucina abbastanza bene. Ora, che è successo che lui era arrivato a Siena, mi aveva telefonato, e allora io gli dissi: vai, domani vieni a cena da noi. E però lui disse: ma senti Maria Teresa, io vorrei venire stasera. E io mi sentii gelare, perché le mie figlie dovevano uscire, mio figlio non poteva andarla a prendere, e in casa non avevamo niente. E gli dissi: ma Mario, ma che ti do? Io mangio una minestrina, visto la sera non posso mangiare molto, c'è un po' di mozzarella, ma io sono abituata, e quando vieni, insomma, teti tanto decente. Ma lui mi disse: ma no, guarda, il piacere di stare insieme, ci accontentiamo, sì, che alla svelta rivediamo questa cena. Ma per dirti la grande familiarità, perché lui immerso magari in un ambiente come Roma, e anche con i figli che erano sempre vaganti, no? Come mine vaganti, tant'è vero una lettera lo ricorda, perché Silvia andava per conto suo, Carlo uguale, e lo stesso Luca, quando veniva a Siena, che veniva, io ho un nucleo familiare molto ristretto, io e i miei figli che non mi abbandonano mai, quindi sono una fortunata sotto questo senso, anche se non posso muovermi di casa. Allora lui ritrovava quell'ambiente caloroso, familiare, che noi si faceva festa e gli faceva, non dico una seconda famiglia, ma comunque una famiglia di amici a cui lui era particolarmente attaccato. E quindi questo episodio io si può immaginare, perché comunque c'è sempre la personalità che viene a mangiare a casa tua. E certo. Io mi sentivo, dico, ora che gli si dà questa mia. Ecco, questo è un episodio che ti fa vedere anche l'umiltà di questo. Assolutamente, persona, no? Sì. Magari gente che vale molto meno, che si dà un'aria, che si crede un padre eterno, invece lui si accontentava addirittura di poco, ecco. Maria Teresa, il tempo ahimè in radio è oltremodo tiranno, e credo che i nostri ascoltatori abbiano veramente apprezzato la tua descrizione di questo epistolario. Però che cosa bolle in pentola? Perché tra l'altro so che intanto hai pubblicato cioè una nuova fatica letteraria, che è stata recentemente pubblicata. Magari ce ne puoi accennare brevemente e poi ne parleremo con la prossima edizione di Brussellando? Sì. Dunque proprio in questi giorni è uscito a maggio, ma va ora nelle librerie, un libro che si chiama Codice Interiore. E sai, quando a un certo punto tu cominci ad arrivare a una certa età, senti poi specialmente la malattia, ti dà il senso delle vere cose che ci sono, e sai benissimo che io vengo da una famiglia molto religiosa, e allora ho voluto fare questo questa sillogia di poesie, di testi tutti religiosi. Molti sono, li ho presi da dei libri che avevo già pubblicato, ma i più sono nuovi e quindi sono dedicati anche a grandi personaggi. Per esempio, le poesie per San Francesco sono 4, 2 per Santa Caterina, e poi hanno l'introduzione di Monsignor Vescovo Emerito Antonio Riboldi di Acerra, che con lui ho un epistolario, anche con lui, che non so se riuscirò a pubblicarlo mai, e comunque ci siamo scritti molto, almeno da un anno e mezzo, e per me è stato come una guida spirituale. È stato lui, io ho chiesto il permesso di poter pubblicare due lettere, e lui mi ha detto che in un momento come questo, in cui il mondo si sente sbandato, anche dare una testimonianza di fede era importante. E poi c'è la prefazione del professor Alessandro Fo, che è docente dell'Università di Lettere e è un cugino di Dario Fo, che si è convertito andando a Međugorje. Poi molti testi sono dedicati, uno al cardinale Gianfranco, quel bravo biblista che ora mi sfugge il nome, e quindi al Papa, quando Giovanni Paolo II è venuto a Siena, e un altro quando fu ferito. Quindi sono ogni poesia, poi un'altra è dedicata alla mia amica che sta in Irlanda, Rina Brondu, e ogni persona ha la sua poesia religiosa, che è una riflessione sulla vita e sulla felicità, che in definitiva è effimera, e solo se tu hai una salda fede e speri che dall'alto ti aiutino, come per esempio quella che ho fatto per Padre Pio, poi il ricavato sarà devoluto ai frati di Padre Pio. Bene. Io me lo sento, lo chiamo il mio padrino celeste. e lui, quando sono veramente nelle peste, io lo guardo, perché ce n'ho a grandezza molto grande, lo guardo e gli dico: ma come vanno le cose? E allora lui interviene e mi dà la forza di vivere, di proseguire. Ecco, sì. E quindi questo è un libro al quale tengo in maniera particolare, anche perché non solo una testimonianza di fede, ma voglio che il ricavato serva alle opere di Padre Pio, perché lui dal cielo ha aiutato le persone, tutte le persone. Maria Teresa, noi ti ringraziamo veramente della disponibilità e anche di questi messaggi molto belli, e ti auguriamo di trascorrere delle ottime e serene vacanze, se avrai l'opportunità, insomma, di poterle fare. E ci auspichiamo, noi tutti qui di Brussellando, dal nostro Giorgio Fiordaliso da Niem, di ritrovarci anche per la prossima edizione di Brussellando. Io ti ringrazio con tutto il cuore. Allora, a prestissimo. Grazie. E buona serata. Buona serata a te, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ed eccoci qui. Io vorrei... Cominciamo con la seconda parte. Ecco, cedere il microfono alla nostra Fiordaliso per la seconda parte del Librangolo. Seconda parte di Librangolo. Stop. Ecco, questo era il reminder. Continuiamo se avete voglia di leggere qualcosa di romantico durante le vostre vacanze, allora vi raccomando Un giorno di David Nichols. Non sarà felice, diciamo, come storia, però ve lo raccomando perché veramente è un... c'è un bel senso dell'umorismo comunque che sta accompagnando la storia. Ve lo raccomando anche per la sua originalità, per questa particolare amicizia, amore che è presentato attraverso un giorno, una ricorrenza che è la data del primo incontro dei personaggi e che poi rivediamo per i prossimi 40 anni allo stesso giorno, riprendendo un po' il filone di quello che è stata la loro vita. È una presentazione originale, una storia bella, quindi ve lo raccomandiamo. Allora, altre chicche dalle nostre letture. Adesso arriviamo alla sfida, diciamo. Chi ha voglia di una sfida, ma divertendosi ovviamente, allora può leggere una fantasia sulla futura storia dell'umanità che abbraccia 20.000 anni. Wow. E questa volta si tratta della serie, delle varie cicli che Asimov ha scritto, a partire dal ciclo dei robot fino alla ciclo fondazione, quindi praticamente da un libro che si intitola Abissi di acciaio fino ad un libro che si intitola Fondazione anno zero. E quindi qua la bellezza è proprio il gioco intellettuale, questa capacità incredibile di Asimov di inventarsi questo futuro, ma anche diciamo le onde della storia che fanno sparire certi aspetti, poi li fanno riemergere, eccetera. È bellissimo, anche come insieme è bellissimo. E quindi si comincia ancora sulla Terra, è soltanto un paio di mondi abitati con dei robot che stanno aiutando le persone a costruire questi nuovi mondi, e con una serie praticamente di storie gialle in cui ci sono del malfunzionamento di robot o di comunque di avvenimenti strani che il personaggio principale, che si chiama Bailey, scopre, e attraverso le sue scoperte praticamente sta anche mettendo in moto dei cambiamenti nella società che poi arriveranno ad un certo punto che non vi dico perché non vi voglio dire. Poi riprendiamo. Questo sta anche in Io Robot. Sì, l'ultima ma no. Storia di Io Robot. Sì, ma no. Sì, ma no. E poi dopo riprendiamo la storia 20.000 anni dopo, più o meno, quando invece si tratta quando invece siamo in un grande impero galattico che sta per affondare, e quindi c'è con l'invenzione della psicostoria si cerca di accorciare questo medioevo galattico che sta per arrivare, e quindi stiamo seguendo la vita di due fondazioni, uno scientifico, l'altro piuttosto diciamo spirituale, portare una nuova era di sviluppo benestare. Benessere, esatto. Queste supposte due fondazioni. Supposte due fondazioni, cioè, ci sono un sacco, ovviamente questa è soltanto una sintesi brevissima, ed è brevissima anche perché devo essere corta, quindi ancora vi menziono proprio soltanto dei titoli con due parole. Se avete voglia di una classica storia di avventura scritta benissimo, allora leggete Peter Carey, Perrot e Olivier in America, per un libro che invece fa bene proprio all'anima, leggete Mr. Green di Barrico, di cui abbiamo parlato proprio poco tempo fa. Se invece dei romanzi volete leggere dei saggi, allora leggete Jonathan Safran Foer, Se niente importa, e preparatevi al vegetarianismo che ne consegue. E quindi con questo chiudo l'imbrangolo, l'ultimo imbrangolo di questa stagione, e vi auguro buona lettura e buone vacanze. Grazie, effettivamente insomma sono tanti suggerimenti, quindi si potrà partire veramente con una scatola piena di libri a metà dicembre, quando ricominceremo con le puntate di Librangolo e di Bruxellando. Ah, insieme il 2 ottobre. Ah no, non a dicembre, ho capito dicembre. No. Anche un po' prima, anche un po' prima, non si sa mai. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. Saluto la nostra Fiordaliso, veramente straordinaria quest'anno. Io veramente vorrei sapere dove riesci a trovare tutte queste chicche inesauribili di lettura. Grazie, ne riparliamo ad ottobre. Il nostro Giorgetto, straordinario come sempre, e io non è la nostra Mary D, è la nostra mitica Mary D, Io vi veramente vi ringrazio, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Radio Alma, ringrazio la direzione per la disponibilità, vi auguro davvero delle serene e ottime vacanze e ovviamente ottime letture. A prestissimo! Ciao! Ciao a tutti!